La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:31, primi 40 secondi in diretta qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazio l'ascolto in diretta in podcast, vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @ radio24.it e il numero di telefono per intervenire oggi, 800 24 00 24, per gli sms 349 238 6666. Di cosa parliamo oggi? È una puntata che ha soprattutto un argomento e poi c'è un supplemento doveroso di informazioni, perché abbiamo fatto una puntata sui punti ancora non chiari del pagamento del canone RAI. Avevo assunto l'impegno di tornare a informarvi, visto che vi avevamo parlato di un buco nel quello che si capiva della legislazione emanata con la legge di stabilità sul canone in bolletta RAI relativo alla scadenza del 31 gennaio. Nel frattempo ieri è uscita una circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e della RAI. Faremo il punto ulteriore sul chiarimento relativo alla faccenda se al 31 gennaio alcuni, anzi tanti, dovevano pagare comunque col vecchio bollettino senza aspettare la bolletta, e soprattutto su un altro pasticcio però che emerge e che speriamo a questo punto verrà ulteriormente chiarito dall'Agenzia delle Entrate della RAI, perché dal comunicato congiunto di ieri è subentrato un altro interrogativo grande come una casa, per così dire. Vedremo di che si tratta, ma questo lo teniamo verso la fine della trasmissione, perché intanto io vorrei invitarvi a telefonare, se spero pochi, però i numeri ci dicono che non è così, alcuni di voi, se come lavoratori, se come imprenditori, si sono trovati in condizioni in questi ultimi tempi o si troveranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in condizioni di rassegnare volontariamente le dimissioni dal posto di lavoro o di mettere in atto le procedure perché ci siano dimissioni di dipendenti dal posto di lavoro, dimissioni volontarie, stiamo parlando quindi non delle dimissioni a seguito di ristrutturazioni, l'articolo 18 modificato dal Jobs Act, il giusto motivo, la giusta causa, la mancata reintegra giudiziale, stiamo parlando di dimissioni volontarie, cioè di licenziamenti volontari. Perché? Perché sono interessato a sentire la vostra opinione. Perché sono uscite le nuove modalità in Gazzetta Ufficiale da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Ecco, sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 di gennaio è uscito il testo del decreto, il decreto del 15 dicembre 2015, con il quale si ridefinisce la metodologia per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e per la revoca di eventuali dimissioni presentate nel rapporto di lavoro, e sugli standard, le regole che bisogna seguire per la compurazione del modulo, per la sua trasmissione al datore di lavoro, alla direzione territoriale del lavoro competente, bla bla bla bla bla. Allora, devo dirvi che la lettura del decreto, e noi avremo anche un ospite che è intervenuto pubblicamente proprio su questo tema, perché io adesso provo a riepilogarvi quello che c'è scritto nel decreto. Vi dico subito che questa puntata nasce dal fatto di dover riflettere tutti insieme su che cosa riesce a partorire la mente del regolatore pubblico italiano, del legislatore italiano, in un decreto il cui titolo è Norme sulla semplificazione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Allora, che cosa c'è scritto in questa norma? C'è scritto: la procedura per la richiesta di dimissione e risoluzione consensuale all'eventuale revoca prevede che il lavoratore, se non assistito da un soggetto abilitato, deve richiedere innanzitutto il codice PIN dell'INPS. Quindi deve accedere al sito www.inps.it e a questo punto registrarsi al Ministero del Lavoro, una registrazione separata, perché dovrà registrarsi al Ministero del Lavoro accedendo al sito www.clicklavoro.gov.it. A quel punto il lavoratore deve accedere al sito del Ministero del Lavoro, un terzo sito, www.lavoro.gov.itform online, e trasmettere la comunicazione, andare alla pagina dedicata o aprire il cosiddetto form online per l'immissione dei dati relativi alla comunicazione di dimissioni o di revoca delle dimissioni stesse, a quel punto inviare il modello, a quel punto il modulo di dimissione, risoluzione consensuale o revoca verrà trasmesso al datore di lavoro e alla direzione territoriale del lavoro competente. Questa nuova procedura entra in vigore il 12 marzo 2016. Riepiloghiamo, perché innanzitutto questa sintesi che io ho fatto è passibile di errori, per così dire, perché vi garantisco che alla lettura del decreto abbisogna, per così dire, di un dizionario di aramaico-italiano, italiano-aramaico, per così dire, ma questa è una mia battuta. Allora, prima registrarsi sul sito clicklavoro.gov.it, avere un user, una password di accesso e così via. Registrarsi al sito dell'INPS, che è un sito diverso, come è ovvio, sempre che voi non siate già registrati sul sito dell'INPS, e a quel punto avere il PIN personale. Per il PIN personale dell'INPS passano giorni, in quanto dopo la registrazione c'è una parte della password di accesso che viene ricevuta in un secondo tempo da parte di chi si iscrive e viene ricevuta, udite, udite, per posta raccomandata. Mica la vorrete ricevere per internet. A quel punto, dopo questa doppia registrazione, dopo aver atteso il tempo della raccomandata, quando l'INPS si degnerà di farlo, ovviamente, si compila il modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro, il codice fiscale, i dati del rapporto di lavoro, eccetera, eccetera. Si invia il tutto a questo sistema informatico SMV, il quale fornisce il codice alfanumerico. Questo codice alfanumerico serve ad attestare il giorno e l'ora in cui il modulo vi risulterà trasmesso, in quanto lo avete trasmesso voi dal come lavoratore al sistema informatico. E a quel punto parte la trasmissione al datore di lavoro da una parte e alla direzione territoriale del lavoro competente. Scusate se ridacchio. Naturalmente c'è un'alternativa. L'alternativa, come capita già con le dichiarazioni fiscali e così via, c'erano i CAF, l'alternativa è andare da un soggetto abilitato dallo Stato che a quel punto effettuerà la procedura a nome vostro. Chi sono questi soggetti abilitati? Il patronato, l'organizzazione sindacale, l'ente bilaterale preposto individuato nei contratti di lavoro tra associazione di impresa e sindacati, oppure la commissione di certificazione. Naturalmente questa modalità, come capite, è semplicissima, assolutamente velocissima da comprendere e da espletare, ha un capitolo a parte rappresentato dal modulo, perché il modulo è un modello standard e questo lo si capisce, è giusto che sia così, che obbligatoriamente dovrà essere utilizzato in maniera tale che ci sia una procedura unica per la dimissione e la risoluzione consensuale. Non è permesso altro mezzo, quindi non si può utilizzare nessun altro format, non è possibile più immaginare risoluzioni del rapporto di lavoro attraverso dichiarazioni scritte direttamente al datore di lavoro, sia pur poi comunicate all'ufficio territoriale del lavoro, eccetera eccetera. No, c'è come unica procedura possibile questa. E questa nuova procedura, appunto, sta in un decreto legislativo che si intitola Semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese. Ora, naturalmente mi si potrà dire, ma è che a leggerlo sembra complicato, poi a fare, vabbè, sono due siti, su quello dell'INPS uno aspetta, poi torna su quello del Ministero del Lavoro, a quel punto va sul terzo sottosito del Ministero del Lavoro, www.lavoro.gov.it, form online, apre il form online, mette i dati, invia il modello, aspetta il codice alfanumerico e poi la cosa è praticamente fatta. Allora, questo capisco che qualcuno potrà obiettare, è più complicato a dirlo che a farlo. Allora, di fronte a questa novità, è intervenuto pubblicamente sui giornali, avendo letto questo bel pacchetto di semplificazione, il delegato per le politiche del lavoro e della formazione della Confartigianato di Vicenza, E io appena l'ho visto, che è un imprenditore, non è un funzionario della Confederazione, è un imprenditore a propria volta, è scritto Confartigianato, e io quando ho visto la sua uscita, avendo quel giorno stesso letto la circolare ed essendomi fatto un po' di amare risate, ho detto: ah, ma allora non sono solo io che ce l'ho sempre con lo Stato a pensare che questa sia una complicazione. Sentiamo che cosa ne pensa un imprenditore vero, non un osservatore come me, un po' pregiudizialmente non troppo favorevole alle invenzioni pubbliche della burocrazia pubblica. Quindi è con noi per dirci cosa ne pensa appunto Sandro Venzo, imprenditore di Confartigianato Vicenza. Grazie, buon pomeriggio, grazie di aver accettato di venirci a dire che cosa pensa di questa bellissima semplificata procedura. Buonasera a lei, dottor Giannino, e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Beh, cosa ne penso? Io mi piace sentirla sorridere perché è la cosa che ho fatto anch'io quando l'ho letta, però poi a me sono venuti i fumi, perché sa benissimo che noi come imprenditori siamo vittime di questa burocrazia che ormai ci sta assillando. Ricordo i 31 miliardi all'anno che noi sono i costi reali della burocrazia per le nostre aziende, e poi vedere che è dentro un decreto di semplificazioni fa veramente girare tutto quello che può far girare. Non è possibile, secondo me, continuare in un paese come questo che da una parte vuole semplificare, dall'altra crea mostri. Io cito solo un esempio: un lavoratore straniero che dà le dimissioni volontarie e se ne va, noi che facciamo? Gli corriamo dietro? Lo fermiamo e gli facciamo fare l'inserzione online prima che vada via? Cioè, no, sono delle assurdità. Ma no, come ovvio, voi sarete tacciati di avere richiesto e ottenuto le sue dimissioni in maniera illegale, non conforme alla procedura di legge, e quindi ne risponderete, come esatto, ovvio. Quindi appunto noi ci mettiamo davanti anche questa possibilità e diciamo: ma se viene fatta una cosa per semplificarne una che tutto sommato la legge Fornero qualcosa aveva già semplificato, e questa cosa qui la va di nuovo a creare straburocratica, il buon senso dove va? E allora io invito tutti i burocrati a farsi uno stage aziendale, l'invito. No, okay. Non si può fare questa cosa. Ma questa cosa manca di rispetto ai fondamentali presupposti di autonomia e indipendenza della pubblica amministrazione, caro il mio signor imprenditore provocatore. Ma scusi, io le dico questo: come è evidente, al di là della nostra ironia, tentiamo di rendere più leggero un argomento che di fatto non lo è, anche se poi alla risoluzione del rapporto di lavoro volontario si arriva magari perché uno è convinto o di non essere soddisfatto del lavoro che ha, oppure di avere un lavoro migliore. Ma detto tutto questo, in realtà queste complicazioni nascono da un'intenzione. L'intenzione è esattamente quella di formalizzare il più possibile questa procedura, perché il retropensiero del legislatore, che non è solo prigioniero di formalizzazioni burocratiche del suo apparato burocratico al Ministero, ma c'è un retropensiero. Questo retropensiero, caro Sandro Venzo, è quello che gli imprenditori ottengano spesso e volentieri delle finte risoluzioni volontarie del rapporto di lavoro da parte dei dipendenti, e che quindi, formalizzando in questa maniera così precisa, metodica, con scansioni del tempo, tra l'altro non è un caso che si preveda questa stessa formula anche entro i 7 giorni dalla presentazione del recesso volontario del rapporto di lavoro, anche il fatto di aver cambiato idea, perché su questo i sindacati dicono che gli imprenditori in realtà ne approfittano. Allora, io a questa domanda, che adesso le ho fatto in una maniera il meno provocatoria possibile, ma che sappiamo tutti essere la vera ragione di questa complicazione, vorrei che lei ci desse una risposta. Naturalmente la sua risposta, per chi ascolta, è viziata da un pregiudizio: ma cosa vuoi chiedere all'imprenditore se davvero gli imprenditori ne approfittano? Però lei è un piccolo imprenditore, gli artigiani insomma non sono i grandi gruppi, le chiedo di esprimersi con sincerità sia cosa capita per voi piccoli imprenditori, e sia se mai abbia avuto l'impressione che nei grandi gruppi invece si proceda con più facilità a questo, che è il vero rischio identificato dal sindacato. Guardi, il fenomeno, lei l'ha citato bene, sicuramente esiste. Io posso solo dire che come rappresentante della piccola impresa, noi abbiamo non solo dalla crisi fatto gli ammortizzatori sociali di questo paese, perché abbiamo fatto veramente di tutto per mantenere l'occupazione, visto che consideriamo i nostri collaboratori come delle persone di famiglia, perché lei sa benissimo che dentro la piccola impresa il sistema è quello familiare, quindi c'è un rapporto molto diverso tra titolare e collaboratore. Poi anche qui, no, poi discorso... per renderlo più credibile, ricordiamo anche a chi ci ascolta che non è solo una questione di affezione familiare. È chiaro che nella piccola impresa le risorse a disposizione, poiché per assumere qualcuno poi bisogna formarlo, sono tali, non essendo le grandi imprese che hanno cash flow di centinaia di milioni, se non miliardi, quelle enormi, e capite bene che quando si investe su una cosa così, esatto, non è che con grande facilità si dice: sai che c'è, il mio investimento ci rinuncio, arrivederci e grazie, perché non funziona così in una piccola impresa. Perfetto, poi non ho mai conosciuto un imprenditore che lascia a casa un bravo dipendente, e questa qui è una cosa che qualsiasi persona può dirmi che non è vero, ma è impossibile che un bravo dipendente uno lo lascia a casa, quindi sul discorso di dimissioni in bianco anche lì ci metto il puntino esclamativo. Poi i dati dicono che il fenomeno è molto in calo, anche perché la Fornero aveva già legiferato su questo, quindi è già difficile ora fare questa cosa qua, non serviva di sicuro questa grande semplificazione. Quindi se il fenomeno c'è, era arginalissimo, perché ripeto, è già scritto e sistemato dalla legge Fornero, questo mostriciattolo, ripeto, si vede che qualche burocrate la sera non sapeva che fare e si è inventata questa nuova burocrazia che, come al solito, ci arriva tra coppa e collo, quindi... No, diciamo che un altro dubbio, naturalmente, io sono in malafede, quindi le faccio io questi cattivi pensieri, potrebbe essere anche di voler orientare le persone ad andare verso il famoso soggetto abilitato, cioè verso il sindacato e verso il patronato, come a far dire: ma siete sicuri, ma non è meglio che ci ripensiate, e così via, perché come effetto di questa procedura non proprio agevolissima, perché innanzitutto bisogna avere una casella di posta PEC, non credo che tutti i lavoratori dipendenti ce l'abbiano, e così via, potrebbe anche indurre a qualche cattivo pensiero di questo tipo, e mi si potrebbe dire: perché cattivo pensiero? Meglio mandarli dal soggetto abilitato. Benissimo, allora vedo già che abbiamo qualche telefonata che arriva, un minuto di informazione stradale, poi restiamo con il nostro Sandro Venzo e vediamo la vostra opinione nelle telefonate. La versione di Oscar. Allora, cari ascoltatori, siamo tornati in diretta. Stiamo parlando di questa nuova norma emanata in Gazzetta Ufficiale l'11 gennaio 2016, in attuazione del decreto 15 dicembre 2015 sulle nuove modalità di comunicazione delle dimissioni volontarie, la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e del relativo eventuale cambio di idea nei 7 giorni successivi. Queste norme nascono per combattere le cosiddette dimissioni in bianco, una prassi contro cui i sindacati hanno tuonato per anni attribuendola alle imprese, e abbiamo visto che questo cosiddetto decreto di semplificazioni è elaboratissimo, complicatissimo, e tutto è tranne che una semplificazione. Nasce da questa matrice però politica e ideologica. Sentiamo come la pensa Massimo da Brescia. Prego, Massimo. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. No, l'unica che io lavoro per il patronato in CGIL, sì, di Brescia, e in realtà come patronato noi non sapevamo assolutamente niente, neanche al nazionale addirittura sapeva che i patronati poi sarebbero stati uno tra gli istituti soggetti abilitati. Sì. Esatto, esattamente. Ma oltre a questo, il percorso, perché poi l'ho studiato ho cercato di, ecco, capire un po' il percorso che comunque anche il singolo lavoratore dovrebbe fare, compresi noi patronati, e non è assolutamente una cosa né semplice né fattibile, soprattutto per noi patronati che siamo al pubblico con la gente che in quel momento spera di risolvere le cose nel più breve tempo possibile e nel modo più corretto possibile. Ma dirò di più: queste semplificazioni in realtà non sono semplificazioni, sono difficoltà che si aggiungono per il singolo soggetto nell'arco della sua vita lavorativa. Basti pensare al fatto che adesso, quando uno viene licenziato, non deve più recarsi presso l'ufficio provinciale del lavoro per fare l'iscrizione nelle liste di disoccupazione, bensì deve iscriversi anche lì in un sito per dare la sua disponibilità immediata al lavoro, sito che non funziona. Quindi oltre ai costi che immagino anche le singole imprese sicuramente hanno all'interno della burocrazia, io che ci vivo di burocrazia, nel senso che ovviamente mi interfaccio con quelli che sono gli enti pubblici che stanno diventando sempre meno pubblici, diventa difficoltoso, cioè non c'è solo uno spreco di denaro, uno spreco anche di risorse. Di risorse, di tempo. Allora, io apprezzo particolarmente questa testimonianza in diretta che ci viene da Massimo, da Brescia, patronato, quindi soggetto abilitato a sostituirsi al soggetto diretto, al lavoratore che vuole presentare spontaneamente le dimissioni, e l'opinione di uno che lavora al patronato è: queste norme sono una complicazione per tutti, ma anche per noi patronati, non solo per i singoli lavoratori. Allora, questo è, per me è molto utile, perché si sentono le voci sul campo. Io sono un mero osservatore che, avendo letto questa roba, ha detto: cose da matti. Però se lo dicono anche i patronati, forse ci sarebbe di che riflettere. Luigi dalla provincia di Ragusa, che pensa Luigi? Salve Giannino, buonasera. Guardi, io in realtà ho diverse opinioni su questa vicenda, nel senso che non è una vicenda così slegata da quello che sta accadendo negli ultimi anni. Per esempio, io mi occupo di questo lavoro, faccio l'avvocato, e ci hanno burocratizzato appunto tale da trasformarci in piccoli, come dire, operatori web. Dobbiamo occupare parte importante del nostro tempo davanti al computer per capire le procedure, per una cosa da pazzi, che nessuno ci paga peraltro. La questione è questa: io penso probabilmente che l'unica ragione, se si possa considerare accettabile rispetto a questa introduzione, è quella relativa alla possibilità delle cosiddette dimissioni per giusta causa. Succede spesso che le dimissioni avvengano per giusta causa, e la ragione per cui l'INPS è interessata è che la giusta causa, l'INPS in qualche maniera consente l'accesso ai fondi di garanzia nel caso, per esempio, di situazioni particolari, e quindi di conseguenza l'aver attraverso procedura informatica la possibilità immediatamente di conoscere se questa dimissione sia una dimissione per giusta causa, e quindi che accede alla tutela del licenziamento, o piuttosto una dimissione come dire volontaria, quindi consensuale, è fonte importante per loro di valutazione delle pratiche, perché dal punto di vista proprio del diritto sostanziale questa cosa è fondamentale. Capisco, questo è un altro utilissimo apporto che ci viene Luigi dalla provincia di Ragusa. Vedremo se c'è anche questo come retropensiero di questa norma. Resta il fatto, e io ringrazio per la segnalazione pubblica che ha fatto Sandro Venzo di Confartigianato Vicenza, che, come vedete, la reazione complessiva degli operatori è una reazione quantomeno perplessa. Allora, io sono un po' contento di non essermi sbagliato. Credo che sia servizio pubblico dirvi quando escono queste norme, facendole commentare in diretta da chi se ne occupa, e farvi capire che non mi pare che stiamo facendo grandi passi avanti. A questo proposito, devo darvi in questi ultimi due minuti delle novità che vengono sulla vicenda come si paga canone RAI. È uscita una circolare congiunta Agenzia delle Entrate e RAI. Vi ricordate che noi abbiamo detto che dalla legge di stabilità si capiva, o meglio, sembrava aperta l'ipotesi che tutti coloro per i quali non coincideva la residenza anagrafica con l'utenza, cioè un canone RAI intestato, cioè non coincidevano canone RAI e residenza anagrafica, tutti quelli sembrava dovessero pagare al 31 gennaio di quest'anno col vecchio metodo. Invece nella circolare dice di no, anche se lo si dice con una frase criptica, cioè dice: il canone, aspettate la bolletta elettrica, dopo vedrete se volete contestare, fidatevi se volete, però c'è scritto questo. In compenso la circolare introduce un altro casino, perché la circolare dice testualmente: il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia o per gruppo di persone residenti nella stessa casa. Se uno legge questa frase, cosa capisce? Che conviventi, coinquilini, badanti, studenti fuori sede, facciamo questo esempio, cioè tutti quelli che vivono nella stessa casa, che hanno lì ognuno una propria residenza anagrafica, tutti questi dovrebbero pagare un solo canone per tutti gli apparecchi TV che sono nella stessa abitazione. Peccato che non è così. Quello che c'è scritto in questa circolare non corrisponde affatto al senso della norma. Perché il senso della norma è che invece il canone in bolletta, cioè l'imposta, come ribadito dalla legge di stabilità e anche da una risposta che dà la RAI sul suo sito, si paga rispetto al proprio nucleo familiare anagrafico, anche se diversi nuclei sono nella medesima abitazione, si è conviventi, e l'apparecchio TV è uno solo. Quindi su questo, cari ragazzi, attenzione a non cadere in questa comunicazione, perché è sbagliata. Ulteriore cosa: si annuncia che verrà introdotto, e questa è una cosa utile, un numero verde gratuito per i chiarimenti. Non si dà ancora il numero, non è ancora stato introdotto, ma meno male che è gratuito, perché il call center da Rai fino a questo momento costava, era a pagamento, e costava 5 euro ogni 10 minuti, cioè pagava più di telefono che di canone. Quindi